Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di due libri che riguardano direttamente le problematiche aziendali. Il primo libro è Open Marketing, è descritto da Andrea Boaretto, Fabrizio Maria Pini e Giuliano Noci. Abbiamo in linea il professor Giuliano Noci. Buonasera, professor Noci. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Giuliano Noci è ordinario di marketing presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e presidente del corso di studio di Ingegneria Gestionale. E il secondo libro parla di Apprendimento corsaro, come ottenere il massimo da corsi, scuole, seminari, esperienze, letture e internet, ed è scritto da Roberto Provana. Buonasera, professor Provana. Buonasera a tutti. Grazie. Roberto Provana è psicologo, docente universitario, ricercatore, consulente aziendale, peraltro anche partecipato negli ultimi anni alla ristrutturazione della Fiat come consulente, quindi apprendimento corsaro. Ma io partirei dal marketing, partirei dal professor Noci, strategie e strumenti di marketing multicanali. Siamo in una società del cambiamento, cambiano le imprese, cambiano le strategie, le imprese devono affrontare le incognite di una crisi che si stenta un po' a superare. Che cosa propone questo libro, professor Noci? Ma questo libro di fatto propone di rivedere quello che è il modello di interazione impresa-mercato. Parte da un'assunzione di fondo che la tecnologia internet e le tecnologie digitali più in generale hanno un impatto molto significativo per le strategie di marketing delle imprese. In sintesi, un po' per quanto riguarda il processo di comunicazione, un po' meno televisione, un po' meno mezzi di comunicazione di massa e un po' più canali digitali. In particolare, alle imprese viene richiesto di creare con il sistema degli individui, con il sistema dei clienti, un'esperienza multicanale. Multicanale nel senso che non è più sufficiente interagire con un unico medium, occorre creare un palinsesto di media attraverso i quali costruire una relazione integrata. In questo c'è larga parte del cambiamento nelle strategie di marketing delle imprese. Ecco, ma in questo quanto c'è di evoluzione, cioè di passaggio graduale verso un sistema che sia multicanale, e quanto deve esserci di rivoluzione, cioè di cambiamento veramente di prospettive e di logiche del marketing aziendale? Ci sono un po' entrambi gli aspetti. In primo luogo un'evoluzione, nel senso che sta cambiando tutto il modo di concepire l'offerta. Tradizionalmente nel processo di marketing si ritiene che la parte fondamentale fosse quella di progettazione del prodotto e dell'offerta, che poi veniva trasferita al mercato. Con il nuovo modo di fare marketing in realtà non è più sufficiente progettare un'offerta, non è più sufficiente progettare l'oggetto allo scambio, è necessario creare insieme una pianificazione dei media, quindi la parte di pianificazione dei mezzi di comunicazione assurge un ruolo strategico, diviene strategica. Ed è invece una rivoluzione. La rivoluzione consiste nel fatto che l'individuo, il mercato, contribuisce a creare valore. Con la rivoluzione digitale si afferma il cosiddetto paradigma della co-creazione del valore. Del resto, come vediamo tutti i giorni, numerosi sono gli esempi in cui le imprese danno in outsourcing parte del processo di sviluppo di un nuovo prodotto. Pensiamo a quello che è avvenuto con Fiat 500 o pensiamo con quello che avviene in alcuni casi quando le imprese chiedono al mercato, chiedono agli individui di progettare la propria campagna di comunicazione. Ecco, ma in questa prospettiva, le chiedo qui un assist per il professor Provana, diventa fondamentale anche la capacità delle risorse umane all'interno dell'impresa di comprendere questa logica multicanale e quindi di avere una formazione adatta ad affrontare in questa prospettiva i rapporti con i clienti e con la clientela. Assolutamente sì, fondamentale. Si tratta di un cambiamento pervasivo del modo di fare impresa, si tratta di un cambiamento nelle modalità di interazione tra le differenti unità organizzative dell'impresa. In questo senso occorre un grande apprendimento, occorre lavorare molto per affermare quello che si suole dire una cultura, un sistema di valori orientato al cliente, verso un'azienda che è sempre più customer centric. Allora, professor Provana, autore di Apprendimento corsaro, come vede la possibilità di questa istruzione, di questa formazione permanente che possa dare la possibilità agli uomini d'impresa di affrontare con queste prospettive una realtà sempre più complessa? Bene, innanzitutto bisogna imparare a concepire la mente come un vero e proprio strumento. Si dice spesso che il nostro cervello è un computer, benissimo, ma la scuola spesso ci indica cosa studiare, cosa apprendere, ma non il come. Quindi servono delle metodologie cognitive proprio per supportare questo sforzo tecnologico, in modo che lo sviluppo mentale sia parallelo o almeno pari allo sviluppo tecnico. Ecco, ma in questa prospettiva il modo di approcciarsi ad internet deve essere diverso da come naturalmente potremmo pensarlo? Beh, diciamo che innanzitutto bisogna stabilire delle capacità di base. Per esempio, la ricerca delle informazioni in internet prevede una grande capacità di concentrazione, prevede la capacità di avere ben chiaro l'obiettivo, altrimenti ci si perde nell'insieme, nel magma delle informazioni. Quindi quasi un percorso di intelligence, no? Un percorso investigativo che ci porti velocemente a individuare le informazioni che servono per il livello di priorità e l'obiettivo. A che punto stanno le imprese italiane in quest'ottica di formazione? Beh, diciamo che c'è molto da fare, perché spesso sono interventi formativi che riguardano prevalentemente i contenuti tecnici, ma non la modalità cognitiva attraverso la quale le persone possono appunto imparare, per esempio, la concentrazione, per esempio essere veloci nell'assimilazione di contenuti, nella lettura, nella memoria, nella ricerca delle informazioni, appunto, per esempio attraverso delle domande rapide, veloci e che arrivino al cuore del problema. Ecco, professor Provana, ricordo autore di Apprendimento Corsaro, come vede le possibilità dell'impresa di far partecipare sempre di più i propri componenti alla logica di apertura al mercato e quindi di rapporti con i clienti e quindi il rapporto con la realtà esterna ed adattare le strategie dell'impresa alla necessità di un'attenzione, un'attenzione costruttiva e operativa verso il cliente? Beh, diciamo che questo ormai è necessario. Io chiamo questa abilità una sorta di capacità multimediale ormai, no? Così come esiste una multimedialità a livello tecnologico, occorre che il venditore, il capoaria, il manager sappiano dialogare utilizzando linguaggi diversi, cambiando prospettiva a seconda dei clienti. Quindi è veramente un grande sforzo che la tecnologia suggerisce per entrare in questi mondi paralleli e gestirli in modo, diciamo, quasi simultaneo. Quindi una grande apertura, una grande capacità mentale di cambiare se stessi in funzione dell'obiettivo, dell'ambiente, quindi una flessibilità anche cerebrale, neuronale, no? In fondo, non solo cognitiva, non solo astratta. Ecco, io tornerei a questo punto al professor Giuliano Noci, ricordo autore di Open Marketing, per capire come questa prospettiva di marketing attualmente viene vissuta dalle imprese, cioè se questa realtà, questa apertura all'esterno richiede delle strategie specifiche e quindi l'applicazione un po' teorica di modelli o richiede soprattutto un'abilità di iniziativa, una capacità quasi creativa da parte dei componenti dell'impresa. Professor Noci. Ma diciamo che di fatto in questo momento potrei dire che purtroppo il sistema delle imprese è in parte ancora al palo, non è ancora in grado, anche per quello che diceva il collega, di metabolizzare questo tipo di cambiamento. Un esempio per tutti: se andiamo a leggere quello che è il cosiddetto communication mix, quindi l'insieme degli investimenti fatti dalle imprese nei differenti canali di comunicazione, a fronte di un mercato che si orienta sempre più in una prospettiva multicanale, oltre l'80% del mix, del communication mix, è ancora dedicato, è ancora rivolto ai canali di comunicazione tradizionale. In questo senso, e qui sta forse la principale difficoltà che le imprese stanno vivendo, affrontare quel cambiamento che il professor Provana diceva, che è un cambiamento abilitato alle tecnologie, ma non è per nulla tecnologico, un cambiamento di strategia, di approccio, un cambiamento di valori, un modo nuovo di affrontare la relazione impresa-mercato. Ecco, potremmo dire, torno al professor Provana, che è un recupero della risorsa umana in quanto tale, quindi della capacità creativa della risorsa umana, che nell'impresa moderna deve essere capace non solo di adattarsi al cambiamento, ma di guidarlo il cambiamento. Ma assolutamente, direi che è molto bella questa combinazione che è stata detta poco fa, appunto a proposito del libro Open Marketing. Diciamo che Open marketing richiede un open mind, cioè bisogna avere la mente aperta, no? Certo. Per affrontare i mercati in modo nuovo, in modo differente, quindi assolutamente, perché l'illusione è che si possa, acquistando tecnologia, acquistare anche implicitamente lo sviluppo dell'impresa, invece non è così scontato, anzi è proprio l'investimento sulle risorse umane che deve andare parallelamente, contestualmente all'investimento tecnologico e all'investimento di tipo prettamente organizzativo. Quindi, professor Noci, potremmo dire che la prima operazione di marketing deve essere fatta all'interno dell'impresa? Assolutamente sì, è un'operazione di coinvolgimento e di integrazione del sistema degli individui verso questa nuova prospettiva relazionale, una prospettiva che di fatto è un cambiamento culturale, un cambiamento di strategia che dovrà vedere le imprese nei prossimi anni sempre più coinvolte. Qualcosa su questo fronte comunque l'Italia sta facendo, le imprese italiane si stanno muovendo, siamo un po' al palo, ho detto prima, però se ci muoviamo almeno ci muoviamo nella direzione giusta? Ma in Italia siamo messi come in verità, come in larga parte degli altri paesi. Qualcosa si sta muovendo nella direzione anche giusta. Non a caso precedentemente ho citato l'esempio di un'azienda italiana. Quindi diciamo che non siamo, almeno in questo caso, messi peggio degli altri paesi. Grazie. Professor Provan, anche a lei per concludere una domanda. Le aziende italiane come sono messe sul fronte dell'apprendimento, della formazione? Ma diciamo attualmente è lasciato molto alle iniziative individuali, diciamo così. Noi italiani siamo il nostro punto di forza, ma anche il nostro punto di debolezza, l'individualismo, e quindi andrebbero queste abilità individuali portate a livello istituzionale e collettivo. Ecco, grande sforzo, diciamo, che attualmente però ho lasciato al singolo. Ecco, comunque hai lasciato al singolo anche la possibilità di fare un passo per questo sforzo leggendo i due libri di cui abbiamo parlato con gli autori, che ringrazio fin d'ora: Roberto Provana, Apprendimento Corsaro, come ottenere il massimo risultato da corsi, scuole, seminari, esperienze, letture internet, edito Anteprima, e Giuliano Noci, autore di Open Marketing, insieme ad Andrea Boaretto e Fabrizio Maria Pini, Open Marketing, strategie strumenti di marketing multicanale, edito da Etas. Buonasera ai nostri ascoltatori, grazie a Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. Questo programma, così come tutti gli altri programmi di Radio 24, può essere ascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata.